I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Welcome to the program, ladies and gentlemen. Maybe you heard the big news. John McCain, Senator John McCain, Republican candidate for president, was supposed to be on the program tonight. Were you aware of that? Yeah. But he had to cancel the show because he's suspending his campaign because the economy is exploding. Vabbè, permetteteci di prenderla dalla parte magari così più irrispettosa, ma anche per un attimo più sdrammatizzante. Insomma, permetteteci di prenderla passando, transitando attraverso il late night show di David Letterman, dove McCain doveva andare, ma dal momento in cui ha personalmente dichiarato lo stato di allarme assoluto della sua campagna e anche del paese, non è andato. Naturalmente non è andato allo show di Letterman, ma soprattutto per ora continua a minacciare di non andare al dibattito che si deve tenere a Oxford, Mississippi, domani sera, ora americana, domani notte, anzi nella mattina di sabato, alle 4 del mattino di sabato, per chi lo vorrà seguire in diretta televisiva dall'Italia, perché le cose nelle ultime ore stanno correndo velocissime, le notizie si susseguono al punto che è difficile stargli dietro su questi due fronti separati, quello della crisi economica e quello delle elezioni, che a un certo punto stamattina, così correndo da un sito all'altro, ci è venuta un'idea e poi per verificarla abbiamo sentito il bisogno di parlarne con chi è più vicino e chi la sa anche lunga a riguardo, ovvero Mario Platero, il nostro amico nonché corrispondente del Sole 24 Ore da New York. E l'idea è questa: ma non è che a questo punto le elezioni, questa terribile, straordinaria, appassionante campagna elettorale per la Casa Bianca 2008 e questa crisi finanziaria che sta destabilizzando, anzi ha già destabilizzato l'America e sta destabilizzando il mondo, non siano diventate un'unica cosa, si siano raggrumate, no? Abbiano fatto una specie di implosione e siano diventate un'unica matassa che peraltro lascia fuori, ce ne dispiace, ma lascerà fuori, temiamo, tanti temi che sembravano così connessi a questa elezione. Qua si parlerà solo di crisi, si vincerà sulla crisi, ma soprattutto, ripetiamo, le due cose ormai sono perfettamente sovrapposte. Noi questo tema e altre domandine che abbiamo le vogliamo sottoporre a Mario che ci sta ascoltando. Buongiorno Mario. Buongiorno, direi che hai assolutamente ragione. Questi due fiumi in piena che travolgevano da una parte la politica con i colpi di scena che abbiamo visto e dall'altra la finanza sono confluiti creando un impatto straordinariamente violento, direi, su tutto, perché si sono creati dei precedenti storici. Sappiamo che Bush ha invitato i due candidati alla Casa Bianca, si vedranno oggi pomeriggio alle 4, non era mai successo prima, ci saranno anche i leader del Congresso. Quindi le due cose ovviamente ormai sono un tutt'uno, ma se dobbiamo ricostruire il momento in cui queste due cose sono diventate un tutt'uno, direi che è il momento in cui Barack Obama, con un certo successo, è riuscito a riprendere l'iniziativa la settimana scorsa, attaccando McCain e i repubblicani sul fronte economico. Questo, associato alle notizie che venivano dalla borsa preoccupanti, devastanti, hanno immediatamente creato un'attenzione, hanno riportato il riflettore su di lui e dunque Obama è risalito nei sondaggi. E ieri c'è stato il colpo finale, il Washington Post gli ha dato un vantaggio addirittura di 9 punti percentuali. Certo. A quel punto McCain si è reso conto che se andava al confronto del dibattito venerdì sera senza che il Congresso avesse già approvato il piano di riscatto di 700 miliardi di dollari per stabilizzare la situazione finanziaria, si sarebbe trovato molto probabilmente in difficoltà, perché le cose ancora andavano male, perché il Congresso litigava, perché non c'era un piano di salvataggio, perché il presidente Bush, come abbiamo sentito ieri sera, lui stesso ha detto che in mancanza di un piano il rischio di avere milioni di disoccupati, banche che chiudono, gente che non potrà più pagare il mutuo, la macchina e così via, così via. Un quadro, devo dire, quello del discorso. Ecco, di Mario, mi fai un breve commento sul discorso di Bush, di cui, insomma, visto da qua mi hanno sinceramente impressionato i toni. Sì, i toni sono stati non solo inattesi, violenti e preoccupanti, ma del tutto inusuali per un capo di Stato il cui ruolo in genere è quello di calmare, di rassicurare, di informare, di dire che le cose tutto sommato sono sotto controllo e si va avanti lungo la strada. Ma la spiegazione di questo, di questa posizione così dura e così allarmante, allarmistica di Bush, l'abbiamo in un fatto molto semplice. Alcuni membri del Congresso hanno cominciato a ricevere delle chiamate preoccupate dalle loro constituencies, dalle loro basi elettorali. E noi immaginiamo l'America come Washington, Los Angeles, certo, New York, le grandi metropoli, ma c'è la grande America delle campagne, la grande America rurale, la grande America delle piccole città, e sono milioni e milioni di persone che guardano sempre con un certo sospetto a Wall Street e alle grandi metropoli, e il famoso parallelo Wall Street Main Street. Main Street è la strada comune dove abitano le persone comuni, Wall Street sono i quartieri alti. Ebbene, il fatto che ci fossero queste persone ha creato la percezione che questo pacchetto di salvataggio andava esclusivamente ad aiutare banchieri che si erano messi in tasca dei soldi e sarebbero andati allegramente, anche col fallimento delle loro banche, con la chiusura, grazie ai contributi del contribuente americano. Certo. Ecco, questo è stato il punto centrale. Quindi Bush ieri sera, usando questi toni, ha voluto ricordare agli americani che il problema di Wall Street e il salvataggio non vengono fatti per le banche, non vengono fatti per i banchieri, ma viene fatto per proteggere il sistema e per evitare che ci sia un effetto domino che dall'economia finanziaria vada a ricadere sull'economia reale e dunque provochi una recessione, una depressione. E dunque Bush ha usato toni durissimi e fortissimi per far capire agli americani, all'americano medio che vede con molto sospetto questo piano di salvataggio, che questo piano di salvataggio non è per le banche, ma è per lui. Se voi non volete perdere il posto di lavoro, non volete perdere la macchina, il mutuo, non volete trovarvi in gravi difficoltà, ebbene appoggiate questo piano, perché questo piano è per voi. Questo è stato, direi, da un punto di vista di analisi, se vuoi, il messaggio che ha voluto dare Bush. Un messaggio che in parte ha funzionato, perché questa mattina le notizie che raccogliamo ci dicono che si sono fatti dei passi in avanti, i democratici, certo, hanno, certo, fatto alcune concessioni su dei punti molto importanti per loro, ad esempio l'idea di dare l'autorità al giudice fallimentare di poter rinegoziare i mutui per conto del debitore e quindi di penalizzare la banca. Ecco, certo, su questo forse i democratici faranno. Tra l'altro sta prendendo un'accelerazione, no? Questo procedimento di questo maxi piano da 700 miliardi. Sta subendo un'accelerazione. L'altro punto su cui hanno fatto marcia indietro invece i repubblicani è di concedere che ci siano dei tetti ai salari degli executive delle banche che approfitteranno di questo piano. Ecco, quindi non si voleva dare l'idea che questo piano poi va ad aiutare le banche, poi però gli executives che ci lavorano si mettono al se coperto, ne vanno con dei, cioè, milioni di dollari. Ecco. Quindi come vedi sono due ormai aspetti che sono confluiti in uno stesso fiume in piena. Da un punto di vista di attese, alle 4 ci sarà questa apparizione congiunta alla Casa Bianca di Barack Obama e McCain, i due candidati, insieme a Bush faranno un discorso al paese per dire, insomma, che sono tutti d'accordo. L'appello è l'appello all'unità, l'appello è a mantenere alta la bandiera americana, ci sarà anche la leadership del Congresso e tutto questo dovrebbe fare da preambolo all'idea e ormai diciamo alla speranza che questo piano tra stanotte e domani mattina possa essere firmato. Dunque, mentre Fox in questo momento sta dando la notizia che John McCain ha preso la via della Casa Bianca per incontrarsi col Presidente, l'incontro dovrebbe essere lui parte a New York e quindi si parla dell'incontro appunto delle quattro, ha lasciato la fondazione Clinton. Io ti volevo chiedere un'ultima cosa, Mario, ma insomma esiste poi alla base di tutto questo procedimento straordinario, eccezionale, anche questa accelerazione vista dall'Italia e dai ritmi italiani, è un fenomeno marziano a cui stiamo assistendo, ma insomma, però esiste questo grande interrogativo che credo tanti americani più che altro si stiano ponendo, no? Su questo Stato guidato da un repubblicano come George W. Bush, che a un certo punto prende in mano una situazione grave quanto vuoi, insomma, ma la gestisce con tutta a un certo punto l'approccio, lo slancio, ma anche la possanza di uno Stato, non so come dire, non quello sì. Stato che cerca di contenersi, di salvaguardare, no? le tante volte decantate virtù dell'individuo americano e via di questo passo, insomma, è un piccolo o forse non tanto piccolo shock culturale per gli americani, io questo voglio sapere da te. Beh, lo shock culturale c'è intanto in quanto c'è l'idea che il contribuente alla fine vada a pagare il conto di quelli che hanno sbagliato, certo. E c'è perché il piano è da 700 miliardi ed è un piano ovviamente senza precedenti, enorme, però allo stesso tempo l'America è abituata a cose di questo genere. Nell'86 ci fu il salvataggio delle casse di risparmio, si fece un'operazione molto simile e allora c'era l'amministrazione Reagan che, come forse i nostri ascoltatori ricorderanno, fu l'iniziatore della Reaganomics, della deregolamentazione, del più mercato meno Stato e così via così via. Ai tempi di Bush padre ci furono i cosiddetti Brady Bonds, quando l'America addirittura andò a salvare il Messico, certo. Che si trovava in difficoltà, fecero delle emissioni, eccetera. Allora, qual è, diciamo, la filosofia americana dal punto di vista dell'intervento? Lo Stato c'è il mercato, ma c'è lo Stato e lo Stato deve intervenire nei momenti di difficoltà. L'idea americana è che intervenga a fare da ponte, mm-hmm. per poi possibilmente recuperare i soldi. Con questo piano l'idea è che da qui ai prossimi anni gli strumenti finanziari che saranno acquistati potranno poi essere rivenduti, rimessi sul mercato e chissà, magari questo prestito, come lo vogliono considerare, i 700 miliardi, qualcosa riporta indietro, in qualche modo recuperato, certo. Ma il cambiamento vero invece lo avremo sotto un altro punto di vista: è scomparsa Wall Street come la conosciamo, ci saranno dei nuovi nomi, delle nuove banche, certo. Che già stanno cominciando ad emergere, perché una volta spazzate le grandi ci sono le piccole, ci sono le banks non banks e ciascuno comincerà a farsi sotto per occupare quelle posizioni che comunque restano vuote. Ci sarà una riscrittura delle regole, fino a che punto queste regole saranno riscritte e dunque davvero cambieranno un po' il volto dell'America come lo conosciamo. Ci saranno dei piani di salvataggio, se ne parlava questa mattina, per l'industria dell'auto, si parla di un piano da 25 miliardi di dollari da erogare per General Motors, per Chrysler, per Ford, che sono anche loro in gravissime difficoltà. E dunque lo sviluppo che può essere un vero shock culturale per l'americano è quello di dire: ma qui a questo punto ci allarghiamo e non c'è più fine dal sistema finanziario, certo, andiamo certo. All'economia reale. La verità, secondo me, e questo è un parere puramente personale, certo. È che alla fine il DNA americano privata. È un DNA certo. Per il mercato, certo. Per il sistema privato, certo. Per l'intervento pubblico che interviene a rimettere un po' le cose a posto, così secondo la grande teoria schumpeteriana tutto si distrugge perché tutto si possa ricostruire, certo. E alla fine di questi straordinari processi epocali di ristrutturazione poi rinasce qualche cosa di nuovo che ancora non conosciamo. E che appartiene a questo tessuto connettivo. Bene, grazie molto Mario del tuo bellissimo intervento. Un'ultima domanda bruciante: McCain dice che ci va solo se nel frattempo si chiude la procedura del distanziamento di questi soldi. Secondo te ci sarà il dibattito domani o no? Allora, io credo che una gran parte del braccio di ferro politico di questi giorni c'è stato proprio per far sì che questo pacchetto fiscale, questo pacchetto di aiuti che doveva a un certo punto sembrava che scivolasse e che andasse ad essere approvato poi lunedì o martedì, che fosse approvato prima. Uh-huh. L'obiettivo è di approvarlo tra stanotte e domani mattina, spazzato il problema del piano di salvataggio. A quel punto McCain andrà al dibattito, perché si sarà tolta dal suo punto di vista la pregiudiziale che lo avrebbe messo in una posizione di debolezza. Grazie Mario, ci speriamo quindi di sentirci domani in occasione di questo atteso, ormai straordinariamente atteso dibattito. Era Mario Platero da New York. Vi do qualche notizia a margine. Come vi abbiamo raccontato con Mario, McCain era a New York, è probabilmente tuttora in città, ma la sta lasciando per andare a Washington, dove alle 4 ora americana, 10 ora italiana di questa sera, ha appuntamento con il Presidente degli Stati Uniti, con Barack Obama, con i personaggi più importanti e potenti dei due schieramenti per questa tavola rotonda sulla questione dell'approvazione del maxi piano da 700 miliardi di dollari. È passato però questa mattina, ha fatto anche un discorso lungo e corposo alla fondazione Clinton, alla Clinton Global Initiative, dove si tiene uno straordinario forum sempre legato alle questioni dell'energia, energia alternativa e ambiente, a cui si dedica questa fondazione. Ci sono anche ospiti di rilievo da tutto il mondo, anche italiani, che partecipano a questo appuntamento. In platea ad ascoltare McCain abbiamo intravisto Sarah Palin. Era in corso poco fa una tavola rotonda sul palcoscenico della Clinton Initiative. Tra poco dovrebbe parlare, tra l'altro, Barack Obama in via satellite. Ha detto, tra le altre cose, McCain, che il dibattito più importante in questo momento è a Washington. Ha sfidato Obama a fare lo stesso nell'interesse del paese, ovvero a sospendere l'attività politica. L'ha ribadito anche in questa sede. Ha detto: è il momento di mettere da parte la politica di partito e risolvere la crisi in modo bipartisan. Questo è puro spirito McCain, diciamo pre-elettorale. Vedremo appunto se, quando ormai si sarà fatta la sera di venerdì, tutto ciò sarà già parte della storia americana contemporanea e i due sfidanti arriveranno a confrontarsi. Gli staff dei due candidati hanno diffuso ieri una dichiarazione congiunta in cui sostenevano che il piano di soccorso da 700 miliardi proposto al governo fosse imperfetto, che una soluzione dovesse essere trovata per evitare la catastrofe economica. Hanno detto che era appunto ora di lavorare insieme, che erano pronti ad andare a accettare l'invito di Bush e andare a Washington. Ma come vedete, l'accelerazione in questa storia è veramente eccezionale, è veramente un nuovo caso di efficienza americana che, quando c'è, va sottolineata. Quindi il dibattito di domani è proprio assai probabile che alla fine si farà. Pull the curtains on the day. Sometimes it is the only way. Sometimes it is the only way. Pull the curtains on the night. finito raccontandovi che segnali in arrivo da Washington davano una grande accelerazione nel reperimento di un accordo bipartisan per la rapidissima chiusura di questa operazione, di straordinaria operazione di finanziamento. Adesso sono partiti invece dei servizi sulle televisioni All News americane che parlano di numerose sacche di resistenza, diciamo così, all'interno del Congresso, che potrebbero rallentare il procedimento. Vedremo di saperne di più nei prossimi minuti. Adesso ci spostiamo ad affrontare un'altra crisi, una crisi che viene da tutt'altra parte del mondo. Ne abbiamo parlato dall'inizio della settimana, parliamo di Cina, parliamo di latte contaminato, che ormai è solo, come dire, il nucleo caldo di questa questione, che poi progressivamente, no, un po' a macchia d'olio, come tirando un sasso nello stagno, si sta allargando prima di tutto in tutto il pianeta, come sentirete anche dalle cronache dei telegiornali e dei notiziari, un po' in tutte le lingue, ma poi sta andando a toccare prodotti, derivati di ogni genere, ben lontani da quel latte alla melamina da cui tutto l'affare si riparte, con 13.000 bambini cinesi finiti in ospedale e 4 addirittura purtroppo morti. Ne parliamo di questo effetto così un po' paradossale, effetto domino un po' paradossale, con Luigino Disegna, che è responsabile dei servizi per l'innovazione e lo sviluppo rurale di Veneto Agricolture, quindi si muove nei dintorni e osserva probabilmente con particolare interesse, in certi casi credo anche con preoccupazioni, scenari di questo genere. Buon pomeriggio, Disegna. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Prima di tutto mi dà una posizione personale, insomma, come ha interpretato questa vicenda nel suo dipanarsi, nel suo raccontarsi a noi che siamo lontani dal luogo, dal cuore della questione, però poco a poco abbiamo visto, come dire, i filamenti di questa faccenda che arrivavano qua fino da noi, apparentemente. Ma io direi che anche questo fenomeno può inquadrarsi in una serie di fenomeni che da alcuni anni accadono e di cui veniamo a conoscenza perché probabilmente di altri non ne siamo stati resi edotti o non conosciamo, probabilmente magari ne conosceremo qualche altro nel prossimo futuro, di una situazione, quella cinese, che è una situazione produttiva che è sostanzialmente fuori controllo. In altre parole, da qualche decennio, diciamo in quest'ultimo decennio, assistiamo all'esplosione economico-commerciale della Cina anche verso l'estero, tuttavia notiamo e constatiamo continuamente, ricordiamo il pomodoro, ricordiamo altre situazioni, certo, influenza aviaria e altre diciamo emergenze alimentari, che la situazione dal punto di vista dei controlli ufficiali, dei controlli del sistema produttivo che si sta modernizzando velocissimamente nell'ambito del territorio cinese, diciamo che i controlli sono molto carenti, in certe situazioni sono inesistenti o delle situazioni note vengono sottaciute di più. Ma poi lei non ha l'impressione che dei controlli ci si ricordi sempre e soltanto in fase di emergenza, cioè che è come se in qualche modo non rappresentino mai, no, una norma acclarata, assodata, ma diventino, come dire, un rifugio al momento del peccato, insomma. Certo, diciamo che siamo ancora al di là da venire per arrivare a una mentalità in cui venga attuato e attivato un sistema di autocontrollo in tutti i sistemi produttivi, in tutte le filiere, dall'agricoltura, dalla terra alla tavola, come già in Europa e negli Stati americani evoluti già da qualche decennio si è implementato, e quindi una responsabilizzazione comunque ripartita ad ogni attore della filiera alimentare, dalla terra alla tavola. In Cina c'è ancora una mentalità molto statalista e accentrata di attività, per cui diciamo che evidentemente non c'è una responsabilizzazione e si arriva solamente quando vengono scoperti anche da altri e non solo nell'ambito del territorio cinese alcune problematiche che poi possono sfociare in problemi molto importanti e direi quasi di carattere planetario, come sta succedendo in questo caso, come è successo il pomodoro, eccetera, no? E diciamo che in queste situazioni la Cina si sta dibattendo, non ha ancora superato, non ha ancora raggiunto degli, diciamo, una maturità nell'attività di autocontrollo, nell'attività di valutazione e di mantenimento delle caratteristiche di qualità delle filiere produttive. Lei come giudica questa poi inevitabilmente molto pubblicizzata attività in queste occasioni, ad esempio dei NAS, no? Ci sono stati controlli, ci sono stati sequestri, c'è stato anche un certo allarme sociale che adesso per esempio sulle pagine dei quotidiani italiani di oggi ha investito in pieno l'attività e, come dire, anche la credibilità dell'intero settore dei ristoranti cinesi, che credo non ridano per niente in queste ore, diventa appunto, no, un interventismo così venato un po' di eccezionalità legato al momento, poi diventa un allarme sociale le cui motivazioni sono un po' tutte da, no, da decifrare. Certo, ma ricondurrei tutta la problematica a livello italiano a una valutazione direi complessiva di quelle che sono le correnti di importazione dei prodotti trasformati e del circuito diciamo del commercio alimentare cosiddetto etnico, no? Uh-huh. Quello riferibile al comparto dei prodotti provenienti dalla Cina, i trasformati cinesi che vengono venduti solamente in negozi particolari, soprattutto con un target di acquirenti che sono i cinesi o gli asiatici che vivono, che attualmente sono in Italia per svolgere qualche attività o che sono comunque in Italia in maniera legale o anche illegale, certo. E che diciamo interessano e che possono essere ricondotti, perché diciamo che il nostro mercato del latte e dei prodotti derivati, noi nei nostri supermercati non troviamo il latte fresco, è di provenienza gran parte nazionale, il latte a lunga conservazione è nazionale o è europeo o tedesco, al più dei paesi dell'est Europa. E infatti Luigino, mi aiuti a rispondere a questo ascoltatore che ha appena scritto e dice: se uno riuscisse a spiegarmi perché in Italia dovremmo importare latte cinese mi farebbe un favore, ma non abbiamo le mucche. Ma noi in realtà questa importazione non la facciamo, no? No, non facciamo importazione, certo, dalla Cina, assolutamente, a parte che c'è il divieto, poi certo. La Cina, in Cina si sta sviluppando ora una zootecnia evoluta con materiale genetico, quindi vacche da latte di importazione americana, di importazione canadese e europea, di macchinari che sono anche di importazione italiana, ma sono soprattutto produzioni riferite al mercato cinese o a quelle correnti di esportazione di prodotti trasformati che vanno su canali diciamo dedicati al commercio etnico per soddisfare la corrente di esportazione di riferibilità cinese verso l'estero. Quindi io sarei abbastanza tranquillo, diciamo che la certezza non esiste mai di questa terra, no? Certo. Però direi che avrei un elevato grado di affidabilità che il mercato italiano non sia toccato da questa problematica. Da questa vicenda. E lei, che immagino, ma naturalmente ti devo indovinare, frequentatore di ristoranti cinesi, ci continua ad andare dunque? No, io proprio non sono per niente frequentatore di ristoranti cinesi, quindi proprio sto alla larga, anche perché diciamo che le caratteristiche igienico-sanitarie dei ristoranti, pur autorizzati, ma comunque va, lasciano bene, un po' a desiderare. Diciamo che preferisco l'olio d'oliva all'olio di semi fritto dei prodotti cinesi, che tra l'altro ti lasciano un odore sugli indumenti quando esci, non te lo porti anche a casa. Che la preoccupa, va bene. Allora, sviluppo rurale, Veneto, agricoltura. Questo era Luigino Disegna, grazie. And so it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. The shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. Every year, 85% of the victims are African children under the age of 5. In Africa, a child dies from a mosquito bite every 30 seconds. Ogni 30 secondi un bambino africano muore per il morso di una zanzara. Questo è Barack Obama versione globale. Nel suo intervento in diretta in questo momento sta dicendo: abbiamo bisogno di 2 miliardi di dollari per il fondo di educazione di istruzione globale. Sta parlando in diretta via satellite da Clearwater, Florida, dove sta preparando il dibattito che si dovrebbe tenere domani sera a Oxford, Mississippi, in collegamento con la Clinton Initiative, il forum che a New York l'ex presidente Bill Clinton ha organizzato oggi per rilanciare le sue attività, le sue iniziative appunto in campo globale legata alle energie alternative, all'ambiente e alla solidarietà mondiale. Quindi è un discorso in un certo senso che Obama si trova a fare in un momento in cui vorrebbe probabilmente farne di tipo diverso. È un discorso improntato al massimo politically, del politically correct. È un discorso su un mondo migliore che è possibile se tutti contribuiscono a farlo. È un po' per un politico impegnato in una fase particolare come credo sia Barack Obama in questo momento, forse anche come dire, una deviazione non del tutto desiderata, ma c'è andato McCain e c'è andato anche Barack Obama. Ascoltiamolo ancora un secondo. It must be a public-private partnership that draws on the resources and ideas and resilience of businesses and non-profits and faith groups. It has to be a cause for. Il concetto è sempre lo stesso, il concetto lui del resto ha presentato anche alla base della sua campagna elettorale americana. Insieme le cose si fanno. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Without immediate action by Congress, America could slip into a financial panic and a distressing scenario would unfold. More banks could fail, including some in your community. I'm confident that before the markets open on Monday, we can achieve consensus on legislation that will stabilize our financial markets, protect taxpayers and homeowners, and earn the confidence of the American people. Presidents are going to have to deal with more than one thing at a time. E abbiamo radunato le tre voci che in questo momento stanno dominando lo scenario americano e mondiale. Bush con la sua chiamata d'allarme a sbrigarsi a tirar fuori i soldi, altrimenti l'economia americana è in serio pericolo. McCain che aderisce, Obama che aderisce ma con riserva, dice un presidente deve saper fare più cose nello stesso tempo. Appuntamento alle 4, 10 ora italiana, tra Bush, Obama e McCain per trovare gli stimoli giusti al Congresso per attivare questo versamento. Appuntamento domani sera alle 3 ora italiana di notte, alle 3 ore italiana di notte da Oxford per questo dibattito che pare si terrà solo se nel frattempo la procedura sarà attivata. Nel frattempo una notizia appena apparsa sui siti americani racconta che è stato rilevato il minimo storico negli ultimi 17 anni nel ritmo di vendita perdita di case e nella velocità di abbassamento, di caduta dei prezzi. Sono situazioni record che naturalmente contribuiscono a rendere agitato lo scenario. Prima pagina. E allora raccontiamo brevemente una storia curiosa che arriva dalla Cina, che Stefano mi ha fatto venire in mente il film Capricorn One, Elliot Gould, che si fondava sulla teoria che poi credo che più di uno in America creda sia in realtà, che l'allunaggio non sia mai avvenuto e sia tutta una finzione a favore delle televisioni. Ebbene, noi in questi giorni abbiamo raccontato dell'avvicinamento della nuova missione spaziale dello Shenzhou 7, la nuova missione cinese che è partita oggi da un poligono nella Cina del nord-ovest. Domani o sabato dovrebbe esserci la passeggiata nello spazio del primo astronauta cinese. Però cos'è successo? L'agenzia Nuova Cina ha inavvertitamente pubblicato con un po' di anticipo una sua agenzia, una sua ANSA potremmo dire così, datata 27 settembre, che raccontava nei dettagli la passeggiata nello spazio con tanto di dialogo tra l'equipaggio, quindi insomma anticipava i tempi. L'errore è durato qualche ora, poi è stato rimosso questo inavvertito take, che si chiama in gergo, che è stato mandato in rete. Il titolo era anche molto suggestivo: notte in sonno nel Pacifico, riflettori sull'osservazione e controllo della 30ª orbita della navicella Shenzhou 7. A questo punto ci viene il dubbio se tutto sia vero o falso. Capricorn One, capolavoro, bellissimo. Anni 70, insomma, sì. C'era un po' l'idea del complotto sempre dietro ad ogni avvenimento americano. 80, occhio. Controlleremo. Vai. Allora, una notizia che ci riporta ancora alle Olimpiadi. Ieri con il corrispondente del Sole 24 Ore Vinci Guerra da Shanghai abbiamo ricordato che è scoccato un mese dalla fine delle Olimpiadi, che dall'8 al 24 agosto hanno inchiodato tutti davanti alle meraviglie cinesi. Ebbene, 6 impianti sportivi di quelli splendidi inaugurati durante i giochi verranno nei prossimi giorni aperti al pubblico e verranno utilizzati per attività sportive di vario tipo. C'è naturalmente anche lo straordinario stadio olimpico, il Nido d'Uccello, che verrà aperto per queste attività. La cosa interessante è che i prezzi che verranno offerti al pubblico, proprio per incentivare il popolo, le masse cinesi a fare sport, è che saranno prezzi più bassi rispetto alla concorrenza. Quindi qualcuno potrà andare a fare jogging allo stadio olimpico magari spendendo meno che una palestra e un altro ginnasio. Va bene, pensiamo di avervi reso partecipi, speriamo, ce lo auguriamo, insomma, il mestiere nostro è questo, di quanto siano concitate queste ore negli scenari internazionali, quanto le cose si spostino, di quanto queste personalità politiche, che poi sono alla fine uomini con due occhi, due braccia, un cervellino che cercano di far funzionare, facciano cose che vogliono fare, facciano cose che conviene loro fare, facciano cose che devono fare, ormai hanno preso l'impegno per fare per esempio un bel discorso sul fatto che uniti si vince, che la fame nel mondo va cancellata e quanto sta accadendo in questo momento su questo palco di New York, dove per carità la Clinton Initiative ha fatto sta realizzando un forum di grande interesse, dove però teste parlanti dicono cose meravigliose. A me però un grande intenti dice un dubbio minimo sulla concretezza di queste iniziative un po' mi resta. Sono Stefano Pistolini, a mio fianco qua c'è Emiliano Enrico, questo è come sempre Jefferson Ming, la parte tecnica è stata curata da Giacomo Spunta a Milano e da Valerio Rocchetti a Roma, la mail per contattarci è jeffersonming@radio24.it, la replica la sentite stasera alle 9, domani attorno alle 4 la diretta, ma naturalmente tenete d'occhio per tutti gli aggiornamenti a tutte le ore Radio 24. Shit，打坐去学生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。